Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando Maridia ai microfoni, vi auguro una splendida serata in nostra compagnia. Saluto Dani M e in regia a tutti voi che ci ascoltano da Bruxelles, dall'Italia e da altre località che riusciamo a localizzare grazie a tutti i nostri strumenti. Saluto in particolare i piemontesi e torinesi all'ascolto e comincerei proprio da qui, comincerei con la breve intervista che ci ha rilasciato Piero Fassino, sindaco di Torino, in veste proprio di ambasciatore culturale della città. Proseguiremo poi con una stupenda intervista, ugualmente stupenda, ad uno dei nostri più cari ospiti, l'ambasciatore Domenico Vecchioni. Restate con noi, Radio Alma, brussellando, Piero Fassino. Sindaco, allora, innanzitutto la ringrazio della disponibilità e volevo che ripercorresse qui con noi questa sera, per gli amici che non hanno potuto assistere a questa serata, alla presentazione che è stata fatta di Torino, perché c'è un elemento che mi ha colpito in maniera particolare di quello che ci ha raccontato questa sera, che è la propensione al cambiamento di questa città, che magari nella memoria collettiva resta ancora legata, come giustamente lei sottolineava, al mondo industriale, ma che invece questa sera ci ha rivelato veramente una miniera di eventi, informazioni culturali e non solo. Magari possiamo ripercorrerlo anche ai nostri microfoni. Sì, Torino è una città che per un secolo è stata una grande città industriale, manifatturiera, produttiva e per milioni di persone l'immagine di Torino è un'immagine associata alla Fiat, alla produzione automobilistica, all'industria, alla manifattura. Ed è vero, nel senso che per oltre un secolo Torino è stato questo. Negli ultimi 20 anni però Torino ha conosciuto una grande trasformazione. Continua a essere una città industriale importante, ma al tempo stesso ha sviluppato nuove vocazioni. È sempre di più un centro di eccellenza nel campo della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia. È una città universitaria di grande importanza, con due università di qualità, 100.000 studenti, 13.000 stranieri. È una grande capitale di cultura perché la città ha investito moltissimo in cultura, valorizzando al massimo il suo patrimonio architettonico, investendo nei suoi musei, investendo nei suoi eventi con una programmazione ricchissima, e questo l'ha fatto diventare una città turistica. Cioè una città che è cambiata, si è trasformata anche nel suo assetto urbanistico, dotandosi di una grande modernità infrastrutturale, la metropolitana, il sistema ferroviario metropolitano, la grande viabilità, i grandi impianti olimpici. Insomma, è una città che è la dimostrazione di come si può costruire il futuro scommettendo sull'innovazione, sul cambiamento, sulla trasformazione di se stessi. Però c'è una cosa che mi viene spontaneo chiederlo, la relazione tra il territorio e l'identità. Che cosa vuol dire oggi essere torinesi e piemontesi nell'accezione più vasta? Da un lato l'identità di Torino e Piemonte è legata alla storia. Torino è la capitale dell'Italia, il Piemonte è il luogo dove si è costruito nei secoli il processo di unificazione italiana. La storia di Torino è strettamente intrecciata alla storia dell'Italia in tutte le sue fasi, in tutti i suoi passaggi nel corso dei secoli, almeno dalla metà del 500 fino ad oggi. E al tempo stesso l'identità di Torino è l'identità di una città che ha saputo diventare grande e prospera nel Novecento con l'industria e oggi scommette sull'essere grande e prospera nel 2000, investendo su tutto ciò che è economia della conoscenza, ricerca, università, formazione e cultura, unendo al profilo industriale, un profilo di città della conoscenza e del sapere. Recentemente ho ascoltato proprio il TG regionale Piemonte, che di tanto in tanto riusciamo a captare anche qui a Bruxelles, e ho visto uno speciale bellissimo dedicato al Museo Egizio. Sì, quello è uno dei, il Museo Egizio è uno dei grandi vanti della città, è il secondo museo al mondo. In questi ultimi anni è stato oggetto di una grande ristrutturazione che si è completata proprio in queste settimane e il 31 marzo, 1 aprile lo inaugureremo. Sarà un evento culturale straordinario e non solo si confermerà essere il secondo Museo Egizio al mondo dopo quello del Cairo, ma anche il primo per modernità e per attrattività. Torino a Bruxelles, ci sono eventi che bollono in pentola nei prossimi mesi? Sì, Torino a Bruxelles, Intanto questa presentazione stasera è stata affollatissima e questo è una buona, un buon inizio. Poi avremo qui da maggio e giugno una serie di eventi legati al cibo, che è il grande tema di Expo Milano, e con la valorizzazione dei prodotti gastronomici e tipici della terra di piemontese e di Torino. Poi stiamo lavorando a costruire cooperazione tra l'Università di Torino e le Università di Bruxelles e tra i musei di Torino e i musei di Bruxelles. E quindi c'è un carnet di lavoro pieno in un 2015 che è molto importante per noi, perché sarà l'anno dell'Expo, dell'Esposizione Universale di Milano, e quindi Torino è alle porte di questo Expo e per noi è una grande occasione per far conoscere Torino a un grande pubblico. Il tempo è tiranno, ahimè, ma c'è un messaggio che vorrebbe lanciare agli amici di Radio Alma e agli ascoltatori di Bruxellando? Venite a Torino, venite a visitare una città e scoprirete un tesoro, scoprirete una città bellissima, una città molto diversa da quella che immaginate, una città piena di cose, una città di cui vi innamorerete e in cui tornerete spesso. Sindaco, grazie. Grazie a voi. Cari amiche e cari amici, eccoci nuovamente qui, quindi come annunciato in apertura di trasmissione abbiamo raggiunto telefonicamente Domenico Vecchioni in collegamento telefonico da Roma. Ambasciatore, bentornato, ben ritrovato a Radio Alma e a Bruxellando. È piacere di ritrovarla, grazie mille di avermi invitato anche questa volta. Io sono contenta di poterla leggere nuovamente perché, come sa, insomma, ritrovare la sua scrittura è sempre uno dei piaceri più belli che aspetto veramente con ansia in ciascuna delle nostre trasmissioni radiofoniche. Allora, facevo una riflessione questo pomeriggio mentre preparavo l'intervista e un po' ho guardato alle precedenti interviste, già che, come abbiamo ricordato, dal 2009 credo che riusciamo a, insomma, a chiacchierare almeno una volta l'anno. Quindi, come ricordavo proprio in apertura, lei è stato console generale a Madrid, a Nizza, nonché ambasciatore d'Italia a Cuba. Ora in pensione, potrebbe insomma magari ritornare a Cuba, questa volta da turista, però preferisce scrivere, insomma, a questo hobby della scrittura. Allora una domanda che forse non gli ho mai chiesto, però quando un numero è singolo resta singolo, quando poi un numero si aggrega assume un altro valore. Da dove nasce questa sua esigenza di indagare zone d'ombra nella grande storia? Perché abbiamo sempre parlato di tematiche molto interessanti, sebbene lontane dalla nostra realtà italiana. Quindi, come mai questa sua... Ma è nata innanzitutto dal desiderio di realmente far condividere ai potenziali lettori gli stessi sentimenti, le stesse emozioni che provavo ogni volta che scoprivo determinati personaggi, quindi il desiderio di raccontare più che altro. E poi a volte nella scelta dei personaggi sono stato anche influenzato dalle sedi dove prestavo servizio, quando ero in Argentina, ecco, mi sono interessato di Edita Gron, quando ero al Consiglio d'Europa dove si trattano spesso, no, i diritti dell'uomo, mi sono interessato a Raoul Wallenberg, il diplomatico svedese, no, che salvò 100.000 ebrei, e insomma in genere c'era sempre un appiglio per scovare questi personaggi e cercare appunto di farli conoscere anche in Italia. Quindi questa volta passiamo ad un tema invece assolutamente interessante, perché sono poi interessanti anche i contenuti che lei ha riportato nel saggio, perché pone l'attenzione, utilizzo le sue parole, alla dinastia coreana dei Kim. Quindi da dove nasce in particolare quindi questo libro? Ma ecco, sempre sulla scia di questo di questa convenzione a voler far conoscere in realtà poco approfondito in Italia, infatti la Corea del Nord è una di queste, sappiamo veramente pochissimo, e quello che mi ha fatto scattare la motivazione è stato il fatto di cercare di capire come mai un regime che nasce comunista, addirittura con contorni stalinisti, si sia trasformato in una vera e propria monarchia, perché attualmente nella Corea del Nord c'è un sistema che somiglia moltissimo alle monarchie assolute del XIX secolo e che ha un po' ereditato gli eccessi dei regimi comunisti con gli XIX secolo, quindi mi è interessato studiare come è stato possibile. In realtà effettivamente mi scuso perché stavo rileggendo uno delle frasi per l'appunto del libro, lei dice proprio, si interroga, no, su questo principio dinastico, quindi la domanda, mi scusi, sorge proprio spontanea, cioè com'è possibile che un sistema marxista-leninista abbia partorito il principio dinastico, rinnegando in un certo senso se stesso? Esattamente, e lo dobbiamo appunto al capostipite, a Kim Il-sung, che dopo la guerra ritorna nel suo paese dopo aver combattuto contro i giapponesi sia in Siberia che in Manciuria, ritorna a bordo dei camion della 35esima armata sovietica, insomma lui è un comunista e quindi sono i sovietici che lo riportano in Corea. A quel punto, spalleggiato da Stalin, dalle truppe sovietiche, prende il potere e sarà sempre sostenuto dai comunisti sovietici, anche quando nel 1950 scatena la guerra di Corea, perché la guerra di Corea nasce da un'aggressione del nord verso il sud, poi sappiamo che c'è la reazione americana, il generale MacArthur che riprende in mano la situazione, insomma l'armistizio di Panmunjom, però nonostante questa sconfitta di Kim Il-sung, con l'appoggio di Stalin rimane saldamente al potere. I suoi problemi cominciano alla morte di Stalin. Nel 1953 il dittatore georgiano muore e arriva poi Khrushchev, arriva la destalinizzazione, la denuncia dei crimini stalinisti, insomma comincia a spirare un po' una nuova aria, l'Unione Sovietica, si parla di distensione, e a quel punto Kim Il-sung comincia a temere per il proprio potere, perché i suoi avversari potrebbero approfittare di questo nuovo contesto internazionale per prenderne il posto. E allora cerca di reagire per cementare il suo potere per sé e per i suoi successori. E si serve di tre strumenti principali. Uno, inventa una dottrina politica che più che altro anche una filosofia di vita, quasi una religione, che si chiama Juche, dove abilmente mischia gli elementi tipici del marxismo-leninismo, infatti il paese adotta tutti i parametri marxisti, quindi nazionalizzazione dei mezzi di produzione, insomma, però lì insieme inserisce anche quelli che sono i precetti del confucianesimo, che fanno leva sul concetto familiare, sul rispetto dovuto agli anziani, sul rispetto dovuto all'autorità, appunto al sovrano, e quindi con questo miscuglio riesce ad ottenere anche un'obbedienza di tutti, un'obbedienza dovuta. E isola il paese per evitare appunto che ci siano delle intrusioni da parte dell'esterno, il paese diventa un regno eremita come fu detto, e quindi da una parte appunto isola il paese, adotta questa nuova dottrina e al tempo stesso dà il via ad un culto della personalità come non si era mai visto prima. E poi c'è il ruolo che alla sua morte Kim Il-sung viene dichiarato presidente eterno, ma non come una, come posso dire, una roboante definizione storica, ma c'è qualcosa di più, perché in realtà sia il figlio Kim Jong-il che il nipote, l'attuale dirigente Kim Jong-un, se lei ci fa caso, non vengono mai chiamati, non sono mai stati chiamati presidente, hanno tutti i poteri nelle loro mani, Kim Jong-un è capo del governo, dell'esercito, dei servizi segreti, del partito, eccetera, però non è presidente, perché? Perché la carica di presidente è già occupata da Kim Il-sung, e quindi questo è il secondo elemento, e il terzo elemento brevemente è che una dottrina politica per quanto raffinata, un culto della personalità per quanto spinto, non sarebbero sufficienti a creare una dinastia se non c'è un sistema di terrore che scoraggia tutti quelli che si dichiarano contrari, e nascono i famosi campi di rieducazione, che erano veri e propri campi di concentramento dove cominciano a essere rinchiusi tutti gli oppositori politici. Insomma, Kim Il-sung basa il suo potere proprio su questo, sull'autarchia, sulla propaganda spinta, il culto della personalità e il terrore. E a quel punto si può dire che ha già stabilito, proprio sul concetto della continuità familiare tipica del confucianesimo, la continuità dinastica, visto che lui è l'unico leader del paese. E la domanda quindi, ambasciatore, sorge spontanea. Secondo lei come si è arrivati a trasformare un sistema comunista in una dinastia ereditaria? Cioè, come è potuto avvenire che effettivamente il paese si sia chiuso? Lei lo scrive molto bene all'inizio, il paese è proprio completamente isolato rispetto, o meglio, contrariamente a quanto accade nello stesso periodo storico, ad altre potenze, non solo europee ma anche globali, quindi mentre altre potenze si aprono al mondo, no? Nonostante la cortina di ferro comunque per un periodo abbia determinato l'equilibrio dei poteri, insomma, da quello che lei scrive qui nel suo saggio mi sembra di capire che questo paese abbia fatto un notevole passo indietro anziché un passo avanti. E appunto con questi tre elementi e assume non solo tutti i poteri, ma diciamo la sua figura viene un po' mitizzata, e mitizzando se stesso mitizza anche la sua famiglia, per cui fa credere che i nuovi dirigenti del paese possano scaturire solo da questa famiglia appunto speciale, che ha delle caratteristiche speciali, addirittura genetiche, e quindi il potere, la gestione del paese dovrà essere comunque affidata ad un membro di questa famiglia, e quindi quando Kim Il-sung muore nessuno si meraviglia che sale al trono, diciamo, il suo primogenito, come avveniva nelle monarchie francesi quando si diceva appunto con la famosa formula le roi è morto, vive le roi, loro nel 94 hanno detto il dittatore è morto e vive il dittatore. E nel 94 il primogenito Kim Jong-il diventa il nuovo capo del paese, il nuovo dittatore, sempre con quest'aura di mito che l'accompagna. Cioè quello che noi probabilmente non riusciamo a capire è che sono diventati i Kim delle figure quasi religiose, quasi, ecco perché quando, non so se ha seguito le polemiche dopo l'uscita del film, di Interview, il film americano. Sì, certo, assolutamente. Ma per loro è un sacrilegio, un film del genere in cui si prende gioco dell'attuale dirigente, e quindi la reazione è stata fortissima. Perché sono delle figure che stanno un po' tra la politica e il misticismo. Lei scrive molto bene ad un certo punto, proprio nel suo saggio, che la classe dirigente coreana è abituata a mentire senza pudore, nella cinica convinzione, parafrasando il celebre detto «la verità è solo una menzogna che dura», che la verità è solo una menzogna che fa comodo al regime. Certo, se lei pensa che i nordcoreani, le generazioni, almeno per due o tre generazioni, sono convinti che la guerra di Corea sia stata scatenata dagli americani, si può capire come addirittura loro manipolano la storia per i loro fini particolari. Cioè nel giorno, possiamo immaginare un giorno in cui dovesse ritornare un sistema democratico nella Corea del Nord, secondo me dovrebbero ricominciare con riscrivere tutti i libri di storia che attualmente danno una visione completamente distorta o addirittura talmente mitica che fa pensare che questa dottrina Yuce sia appunto una vera e propria religione. Se le leggi e le biografie ufficiali dei Kim sono piene di prodigi, di miracoli, si diceva che il sole sorgeva quando si svegliava e tramontava quando lo voleva lui, il figlio è nato sul monte sacro del Paektu, è apparso un doppio arcobaleno, è nato una nuova stella in cielo, sono tutte queste cose che poi hanno finito per caratterizzare appunto la particolarità di questi dirigenti. Tra l'altro non c'è solo il suo libro che finalmente dà un po' o comunque sottolinea questi eventi, ma c'è stato anche un rapporto dell'ONU lo scorso febbraio 2014 che per l'appunto accusa il regime Pyongyang, spero di averlo pronunciato bene, di innominabili crimini contro l'umanità ed altro ancora. Quindi quello che mi ha sorpreso è che anche negli ambienti più dotti, negli ambienti più culturalmente elevati, comunque poco si è parlato o poco si è voluto parlare di questa dinastia. Sì, perché il rapporto dell'ONU è inoppugnabile, perché si basa sui riscontri fatti, su testimonianze, su relazioni, insomma, tutto quello che racconta è stato verificato, per cui non si può dubitare che sia stato fatto per l'inimicizia verso la Corea del Nord. Tant'è vero che l'Assemblea Generale dell'ONU questo rapporto lo ha approvato e lo ha passato al Consiglio di Sicurezza e ha chiesto che i dirigenti della Corea del Nord siano deferiti alla Corte Penale Internazionale. Naturalmente al Consiglio di Sicurezza la cosa si è fermata perché lì ci sono gli sponsor di sempre della Corea del Nord, la Russia e la Cina, però è significativo il fatto che comunque sia arrivato al Consiglio di Sicurezza. Ma questo ci pone un quesito, come diceva lei, tutte queste cose in realtà si sanno, esatto. Ma lo stesso rapporto dell'ONU si chiede ma che cosa può fare la comunità internazionale per andare in soccorso di questa popolazione martire. Purtroppo la risposta sconsolata potrebbe essere poco, dati gli attuali equilibri internazionali e soprattutto considerando che la Corea del Nord si è dotata di armamento nucleare e quindi tutti sono molto prudenti in queste circostanze. Però il rapporto dell'ONU un merito ce l'ha, ecco, che tra 10 vent'anni nessuno venga a dire appunto noi non sapevamo, noi sapevamo e sappiamo, il rapporto dell'ONU in qualche modo dimostra tutta la impotenza degli organismi assolutamente riconosciuto per la colonizzazione. Cosa fare? E lei come lo vede il futuro? Perché insomma che cosa prevede nell'ambito delle relazioni internazionali? Uno potrebbe pensare che prima o poi arriverà la primavera coreana anche nella Corea del Nord. Sta di fatto che attualmente la Corea del Nord non pensa ad una riunificazione, soprattutto perché teme di fare la fine della Germania dell'Est quando si è unificata la Germania dell'Ovest, cioè teme di essere assorbita completamente dalla Corea del Sud, che è oramai uno dei paesi più avanzati del mondo. Il problema è sempre lo stesso, il problema è che la casta dirigente vuole conservare il potere, quindi farà di tutto per continuare, è assai imprevedibile, perché questo sistema potrebbe implodere anche abbastanza brevemente, ma potrebbe durare ancora anni e anni. Il fatto che Kim Jong-un, seppur aveva fatto pensare che se non altro per motivi generazionali, insomma, in Corea del Nord sarebbe arrivata una ventata di rinnovamento, invece non c'è stato, c'è stata solo un'assoluta continuità, probabilmente perché lui teme che il sistema è così rigido che se, come un castello di carte, che se si tocca e crolla improvvisamente. Un po' fu per l'Unione Sovietica, fu un'implosione, non un'esplosione. E quindi è probabile che loro cercheranno di non cambiare nulla, la speranza di poter continuare a mantenere il potere, che poi alla fine sotto tutti i cieli il problema è sempre quello, il potere, il potere assoluto, che secondo me rende un po' folli. E poi non solo secondo me, ma sai che c'è una patologia medica studiata dagli psichiatri che si chiama l'ubris, e che da cui sono affetti proprio i dittatori assoluti, cioè una progressiva. Però così li giustifichiamo. Come? Li giustifichiamo però così. No, senza giustificare, per dire perché sono così, perché questa patologia è caratterizzata da questo distacco progressivo dalla realtà, da una autostima di sé smisurata, soprattutto dalla convinzione che la loro missione sia in qualche modo soprannaturale. Per cui chiunque si mette di mezzo, che sia un singolo, un gruppo, anche un popolo, e va completamente, va distrutto, perché la loro missione appunto ha caratteristiche quasi quasi divine, che ci sono di questi esempi, ed è probabilmente proprio l'esercizio del potere assoluto che rende folli, perché quando questi dittatori vanno al potere sembrano che siano ragionevoli, no? Spesso ci vanno anche attraverso delle elezioni, eccetera, non sono, però poi l'esercizio del potere assoluto, addirittura se è a vita, non lascia indifferente la psiche di una persona. Beh, d'altronde Kim primo è stato dichiarato costituzionalmente presidente eterno. Kim secondo, dal canto suo, era in grado di determinare le condizioni meteorologiche. Kim terzo addirittura è stato dichiarato genio dei geni militari, pur non avendo mai partecipato ad alcun tipo di combattimento reale, quindi questi mi sembrano essere esempi più che mai calzanti di quello che ci stava raccontando poc'anzi. Ambasciatore, come sai, il tempo in radio è ahimè tiranno e scorre via velocemente. Sta già scrivendo ad altro, si sta già occupando di un'altra tematica, oppure al momento sta promuovendo questa sua ultima fatica letteraria? Sì, no, sto evidentemente promuovendo anche quest'ultimo libro, però adesso sto rivedendo, correggendo e elaborando meglio un pezzo che avevo già scritto tempo fa, che è sulla storia dello spionaggio, però attraverso gli agenti, attraverso le persone, i protagonisti, e lo sto rivedendo, e quindi penso che magari ne potremo parlare tra un anno. È un percorso abbastanza affascinante di vedere come tutta questa materia si è evoluta durante i secoli, insomma, come si è passati dallo spionaggio all'intelligence, che sono due cose alquanto diverse. Ambasciatore, quindi noi la ringraziamo e soprattutto speriamo di poter veramente saperne di più, anche perché, come le sa, si dice che a Bruxelles c'è il più alto numero di spie, dopo Washington, se non sbaglio. Quindi, insomma, probabilmente qualcuno ci ascolterà con un po' più di attenzione. Siamo in chiusura. Vorrebbe però ancora aggiungere qualcosa che non le ho chiesto e che avrebbe piacere di dedicare ai nostri amici all'ascolto? Un consiglio è naturalmente di leggere il libro, se non altro per conoscere meglio questa realtà, perché, ripeto, in occasione del film di Interview, avendo magari un minimo di background della Corea del Nord, sarebbe capito meglio come la polemica abbia assunto toni così accesi, tanto da creare una crisi vera e propria tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, per un film. Non so se, comunque, amici, amiche, all'ascolto, quindi la prima dinastia comunista della storia, la saga dei Tre Kim di Domenico Vecchioni, edito da Greco e Greco, potrete trovarlo facilmente anche online. Ambasciatore, noi la ringraziamo. Grazie a voi. E contiamo quindi sulla sua prossima pubblicazione. A presto. Cari amiche, cari amici, eccoci di nuovo in regia con Dani M a Bruxellando e ci sono alcuni eventi di cui volevo parlare prima di cedere la parola a Jorge Fiordaliso. In particolar modo vi volevo segnalare due eventi, uno dei quali abbiamo già seguito negli anni passati e che è un evento immancabile a Bruxelles. Vi parlo del BIF, il Brussels International Film Festival di Bruxelles. Ve ne parlo adesso, anche se è tra un mese l'evento, perché essendo poco dopo Pasqua magari state pensando che cosa fare al ritorno a Bruxelles, per cui dal 7 al 19 aprile c'è il 33esimo Brussels International Fantastic Film Festival a Bruxelles, al Palais des Beaux-Arts quest'anno, quindi una posizione centralissima, e immancabile BIF con 3f.net, con tutte le informazioni. Il secondo, un altro evento un po' prima, è dal 14 al 22 marzo, è la lingua francese in festa al comune di Saint-Gilles. Sappiamo che il comune di Saint-Gilles ospita i locali di Radio Alma, per cui ci fa piacere ricordare questo evento, e adesso io cedo il microfono a Georges e Fiordaliso, che sono qui in studio con noi e che ci parlano di qualcosa che scopriremo tra un secondo. Le cuffie, adesso mi sento nelle cuffie, yes, benvenuti. Vi ho dato la voce. Mi hai dato la voce, bentornati nelle frequenze diretta, in diretta di Radio Alma. Beh, Bruxellando parte 2, questa sera si diverte a parlare di qualcosa. Come avete notato, ultimamente devo molto spazio ai libri. Beh, vabbè, ci stiamo preparando per qualcosa di diverso, qualcosa di speciale. Ma nel frattempo, visto che Daniele mi ha parlato, vi ha parlato delle novità che ci sono, io vi annuncio un'altra novità sul panorama brussellese, ed è il concerto di Stefano Bollani. Grande Giorgio, vero, a Flagey. A Flagey, a Piazza dei Flagellati, come in italiano sarebbe Piazza dei Flagellati. No, dei penso flagellati. Che Eugène Flagey fosse l'ex sindaco di XL. Quel che è, a me non piace so se dire. Si flagellava. A me piace dire Piazza Flagellati, suona bene. Sarà sempre meglio che Sterzing e Vipiteno. Non ho mai capito la differenza fra Sterzing, da dove nasce Vipiteno, visto che si chiama Sterzing. Forse hanno preso la radice romana, latina, chi lo sa, il nome antico, non lo so. Però è strano vedere queste differenze. Però italianizzato Flagey sarebbe comunque Flagellati. Va bene, detto ciò, Stefano Bollani il 6 marzo. E il 7 marzo invece c'è il Museum Night Fever. Non ti ho sentito, cosa hai detto? Ho detto che il 7 invece c'è la Museum Night Fever. Il Museum Night Fever, che cos'è il Museum Night Fever? Sono delle aperture speciali dei musei, dei programmi anche speciali notturne. Musei, diciamo, sarebbe tipo le notti bianche, ma magari non sono e tu hai qualcosa di particolare in testa? Beh, non so, guardando in giro ho visto che addirittura anche nel Parlamentarium hanno organizzato delle cose, tipo delle performance con musica, con arte, collegare il visuale con il suono, che mi sembrava una cosa molto interessante. Comincia alle 19:30, quindi, e se mi ricordo bene, purtroppo non mi ricordo il nome, ma tutti sono italiani, anche il musicista, anche l'artista. L'artista, certo, l'abbiamo avuta anche in studio una volta, Laura Gascone della Croma, e quindi mi sembra una cosa molto interessante da provare. anche questa. Assolutamente, perché a noi fa solo piacere dare un po' di, così, di visibilità a Laura, che salutiamo, Laura di Croma. Nello spazio Croma, che salutiamo calorosamente, ci ha fatto molto piacere averla qui, speriamo di averla qui ancora sulle frequenze di Radio Alma. E quindi ecco, due eventi interessanti: uno, il Museum Night Fever al Parlamentarium con Laura Cascona di Croma, e il 6 marzo, per chi è interessato, Stefano Bollani, che vi ricordo ci diede, purtroppo lo devo dire, Buca l'anno scorso, ecco, però venne Paolo Fresu. Venne Paolo Fresu, io persi il biglietto, perché non ci volevi andare, perché non si sapeva chi doveva venire. Quindi, comunque, allora. George, non c'è due senza tre, altro evento musicale, 17 aprile, concerto dei Subsonica a Bruxelles, al VK a Rue de l'École. 17 aprile. Il 17 aprile. Vabbè, ragazzi, c'è mezzo Pasqua, la gente va via, quando torna non sa cosa fare, prima al BIF e poi al concerto di Subsonica. Danny è incredibile, cioè ci dà le cose con un mese di anticipo. E guarda che ci sono certi festival di musica dove i biglietti finiscono molto, ma molto prima. Cioè, se tu cominci a parlare di certe cose ad aprile, con un concerto che viene il 16 aprile, è come dire niente, cioè mettiti sulla waiting list. I concerti di Jovanotti di Milano di quest'estate sono già sold out adesso. e ne fa 5. Ma lì perché ci sono i bagarini. Ah, può essere. Dai, ci saranno i bagarini. Faranno il bagarinaggio qui ancora, non so, ma non mi pare che a Bruxelles ci sia. C'è un limite del numero dei biglietti, sì, che si possono comprare generalmente, il che indica che comunque la pratica esiste, il VAO esiste. Sì, in effetti io ho provato a comprare un biglietto a teatro e il massimo è 8. Comunque, George, non so, cioè, anche voi siete a Bruxelles da una vita. Qua, quando qualcuno vi invita a cena, la prima cosa che uno fa è tirare fuori l'agenda. Ma tra tre mesi, non lo so, forse. Dai. Vabbè, quest'uomo senza agenda, io non so come faccio, io ho sempre usato l'agenda. Non l'ho mai aperta, ma l'ho sempre usata. C'ho posto, quindi abbiamo anche un concerto di Subsonica, va bene, benissimo. Concerto di Subsonica, Stefano Bollani, Museum Night Fever. Cioè, abbiamo una bellissima ondata di belle cose italiane, quindi preparatevi, andate. Eh sì, è marzo, l'8 marzo è la festa della donna, ragazzi, fate qualcosa, cioè vediamo di fare qualcosa. Ricordatevi, se avete un'amata, ma anche se non avete un'amata, se avete una capa, se avete una collega, è l'8 marzo. Sì, lo so, me lo direte voi, ma l'8 marzo è domenica, come faccio a darlo alla collega? Ok, non è il caso di andare a casa della collega l'8 marzo e di portare dei fiori, perché il marito potrebbe arrabbiarsi, ma a parte questo caso molto specifico, che insomma passa di rado, se vi capita l'8 marzo di essere in giro, regalate in giro questa mimosa, trovatela, tanto si trovano qui a Bruxelles. Ma no, le mimose, io sono allergica alle mimose, cioè mi sta benissimo qualsiasi altro fiore, anche un solo pezzo. Lasciate, allora, delle margherite che sono comunque gialle, non delle rose che sono, forse un'indicazione un po' eccessiva, magari potreste dare un messaggio diverso. Bucaneve, dai, dei bucanieri. La primula. Sì, vai. Sono tutti bene, innocenti, bellini. Allora, date dei bucanieri in pasto alle piratesse? Sì, non i biscotti, No, quelli si chiamano bucaneve. Ho detto date dei bucanieri in pasto alle piratesse. E noi adesso chiudiamo con questa parte e ne apriamo una parte molto più interessante, la parte che tutti voi so che aspettate a lungo per una settimana, e dite sì, dai che arriva, ma quando tace questo Giorgio Land? Adesso, perché viene un Gio, il Prangolo! Io volevo una sigla un po' 1945, anzi 40. Ta ta ta ta ta, lì Brangolo ta ta ta ta ta ta. Ah, qualcosa del genere, più o meno. Oh, perché stasera boom, librangolo boom. Boom, librangolo boom, boom, perché librangolo boom. Il libro di cui vi parlerò stasera comincia con un boom. Cioè di natalità? Scusami. Un boom di natalità, un boom economico, un boom edilizio? Un boom vero e proprio. Ah, un'esplosione. Più o meno, diciamo che il nostro caro e ben conosciuto Hitler si sveglia in mezzo a Berlino nel 2011. Ovviamente ci mette un po' a realizzare dov'è, perché un attimo prima, diciamolo così, stava ancora dormendo dentro il suo bunker e c'erano un sacco di boom. Ibernato? Non lo spiega l'autore, non lo spiega, questo lo lascia proprio in sospeso, e Hitler non lo saprà mai, quindi va bene anche così. Comunque la cosa più importante di questo libro non è il fatto che di come è arrivato Hitler nel Berlino del 2011, ma piuttosto che cosa fa. E questo è un esercizio di fantasia abbastanza interessante, secondo me. L'autore, che si chiama Timur Vermes, lo assolve anche in modo abbastanza interessante. Ne fa un libro che fa sorridere, ma allo stesso tempo fa riflettere, e in un certo senso fa anche paura, fa senso, come si dice. Ecco. E quindi quello che succede è che lui immediatamente si mette a cercare di capire il mondo attorno a sé, e cercando di e mentre cerca di capirlo realizza anche molto, cioè filtra tutte le informazioni che lui vede attraverso i suoi speciali occhiali, la sua speciale logica, diciamo, che conosciamo abbastanza bene dai libri di storia. Però questo libro va molto oltre ai libri di storia nell'entrare dentro la testa di Hitler, perché una delle intenzioni dello scrittore era di parlare di un lato di Hitler di cui non ne parliamo già da un sacco di tempo, cioè che in fin dei conti doveva essere uno carismatico e uno simpatico, perché altrimenti non sarebbe mai stato eletto. Alla fine, cioè, lui è riuscito a trascinare un intero paese con sé, ma c'era una ragione, non è che era semplicemente un mostro psicopatico, perché questo sicuramente non l'avrebbe fatto eleggere neanche nei tempi così tristi e bui che precedevano alla Seconda Guerra Mondiale. E quindi è proprio questo lato che lui esplora, e lo scrittore si appoggia tantissimo sullo stile di scrittura di Hitler nel suo libro Mein Kampf, cioè la mia lotta, diciamo, sì, la mia lotta. E anche sui monologhi che lui scriveva, faceva durante la sua carriera, anche sui pensieri un po' più privati. Quindi il libro è molto ben studiato ed è molto e sembra abbastanza collegato alla verità del personaggio, ma allo stesso tempo gioca un sacco su, ovviamente, con questo pensiero di avere Hitler tra di noi oggi e che cosa farebbe. E praticamente già quando arriva Hitler ovviamente vede tutti i problemi della società, cioè dal fatto di avere una donna poco affascinante alla guida del paese fino alla democrazia un po' troppo democrazia, che non è che gli piace così tanto. Beh, certo. Capito che avesse un po' di idiosincrasia verso la democrazia. E dalle signore che stanno raccogliendo gli escrementi dei cani che dovrebbero essere sterilizzate perché sicuramente sono proprio fuori di testa, fino alle stranezze della televisione, cioè che i notiziari sembrano proprio essere là a confondere la gente e di mettere le notizie veramente importanti, di angolarli in un modo da passare praticamente inosservate. Cioè, alcune delle osservazioni che fa sono anche abbastanza interessanti, perché per esempio io non ci avrei mai pensato all'overload di informazione e quanto questo overload di informazione alla fine conduca al fatto che molte cose che eventualmente sono effettivamente importanti o effettivamente possono influenzare la nostra vita passino inosservate o se osservate comunque non prioritizzate. Overload di informazione, cioè genericamente parlando. Ma genericamente parlando, ma anche per esempio nei notiziari effettivamente ultimamente è molto utilizzata la striscia di sotto, quindi mentre il tizio parla o la tipa parla, nel frattempo comunque passano un sacco di notizie anche sotto, e non necessariamente tutte le notizie che passano su questa striscia testuale appaiono come un servizio vero e proprio, e quindi alla fine, cioè per esempio Hitler nel libro sta ironizzando dicendo che beh, se avessi saputo avrei venduto così una delle perdite di guerra che delle tante che si erano fatte attraverso una striscia così la gente non avrebbe mai notato che mentre si dà una bellissima notizia su non so, su qualche vincita, quali perdite si siano fatti da un altro lato. E una delle cose chiavi di questa figura Hitler che appare nel 2011 è proprio l'obiettivo di utilizzare i media. Cioè al momento che arriva lui comunque vuole ricominciare tutto da capo, cioè di ricostruire il suo partito, di ricostruire il suo personaggio, di essere di nuovo in guida al paese. E lui ovviamente questo lo pensa sul serio. E vede anche come nel passato, perché effettivamente faceva la stessa cosa anche prima, che la via più dritta per fare questo è arrivare a qualche microfono da qualche parte. Quindi il suo obiettivo è radio, televisione, qualsiasi cosa, arrivarci. E effettivamente ci arriva, e ci arriva perché tutti pensano che lui interpreti in modo geniale il personaggio di Hitler. E quindi lo pensano un umorista proprio strepitoso, uno che fa method acting, perché non cade mai, diciamo, non è mai fuori ruolo, è perfettamente dentro, ha un sacco di informazioni, non ha bisogno mai di scrivere nessun sketch perché tutto gli viene naturale. Quindi lui sembra semplicemente un comico geniale che sta imitando Hitler. Ed effettivamente riceve un contratto in una trasmissione di comici. E così comincia, diciamo, la sua carriera. Poi diventa più popolare perché attraverso i canali YouTube, eccetera, la sua fama si sta alzando, ma nessuno lo sta prendendo sul serio, eccetto alcuni, ovviamente, che sono sempre le persone che svelano. Che diciamo svelano, e questo, cioè, scusatemi se faccio una digressione, magari anche un salto leggermente grande, non leggermente ma proprio grande, verso Umberto Eco, perché nel Pendolo di Foucault per me la cosa più rivelatoria era che c'era questo gruppo di persone che si è inventato una teoria della cospirazione proprio fuori della testa, su come i Templari, veramente la storia dei Templari, stesse muovendo la maggior parte della storia fino ai giorni di oggi, e semplicemente si divertivano con questa teoria. E però mentre loro parlano di questo, ci giocano, c'è altra gente che ci crede però, e alla fine viene a loro e li minaccia per avere le informazioni che loro sembrano di avere. E quindi il problema è sempre dove finisce il gioco e dove è che certe persone ti prendono sul serio perché quello che stai facendo proprio è in linea con le loro credenze o le loro vaneggiamenti, dipende dalla situazione, e da quel momento in poi il gioco si fa serio. Ed è un po' la stessa situazione anche in questo libro, ricreato in un modo molto più comico, cioè il fatto che c'è questo Hitler che fondamentalmente sta nel ruolo del comico perché non ha altra scelta, però nel frattempo già c'è alcuna gente che comunque lo prende sul serio. Ed è proprio questa la parte più minacciosa del libro. Cioè la parte più minacciosa del libro è che attraverso questo filone della comicità, alla fine Hitler arriva addirittura ad essere offerto un contratto per scrivere un libro, arriva ad avere la propria trasmissione, eccetera. Quindi nonostante il fatto che un sacco di gente non lo prenda sul serio, riceve tutti i mezzi, ha tutti i mezzi in mano per ricominciare tutto da capo. Ed è questo questa è la cosa un po' spaventosa, che molto effettivamente, se uno ci pensa, molto facilmente oggigiorno può essere possibile che qualcuno anche con degli intenti non necessariamente onesti possa ottenere tutta l'attenzione di cui hai bisogno per fare qualcosa di magari non così carino. Infatti io volevo un'analisi un po' più approfondita su questa cosa qua, se l'hai trovato, se c'è nel testo. Cioè, se ho ben capito, lui parte in modo così, per ridere. No, lui no, lui pensa tutto sul serio, però gli altri ridono. Però gli altri ridono di quello. E lui dice, vabbè, ridete, a me questo non conta, per me questo non conta. Quello che a me conta è di avere... avere la mia, il mio canale per arrivare alla gente. Ecco, è così. Cioè, è il canale per arrivare alla gente, quindi a lui non importa che il suo messaggio venga all'inizio preso sotto gamba. Assolutamente no. Perché lui ha capito che non importa quanto sotto gamba sia, l'importante è che arrivi. Esatto, l'importante è che arrivi, che guadagni importanza, che abbia successo, così... Lui prima o poi può far passare anche i suoi messaggi, fra virgolette, seri, anche quello che lui veramente vorrebbe fare. Quindi è un esercizio di fantasia interessante, io direi. No, è interessante come le cose, mi stavo cercando ma non riesco a trovare, il telefono non funziona, un libro di Anna Maria Testa, credo fosse La parola creativa o La parola che crea, non mi ricordo più bene, in cui proprio si spiegava questo. Beh, io mi ricordo questo libro, ma il concetto è stato espresso anche da altri. Cioè, nel momento in cui una parola viene detta, questa parola porta in sé un concetto. Quindi forse anche a base della semiotica c'è questo, cioè un seme, cioè un'idea, un concetto che viene portato avanti, viene concretizzato, viene condensato da una parola. Allora, nel momento in cui qualcuno, anche solo scherzando, comincia a dire delle cose, queste cose si condensano. E una volta condensate, come una volta trovate una parola per identificare qualcosa, questa parola vive di vita propria. Non si può più dire l'ho inventata per fini divertenti e fini comici, perché una volta inventata rimane. Non si può cambiare, non si può eliminare, una volta fatta c'è. E quindi mi viene in mente che è assolutamente vero che attraverso una qualsiasi forma di espressione, anche quella comica, si possono cominciare a dire delle cose che poi fanno preso sulla gente. Poi c'era lo stesso Orazio, no? Che diceva, anche se scherzando si dicono le cose vere. Quam ridentes, verum, sì, anche se secondo me lui l'ha pensato in un modo diverso, perché effettivamente l'umorismo riesce a far vedere degli aspetti della verità che sono molto più difficili da esprimere con la serietà, cioè semplicemente getta una luce sulle cose attraverso il gioco, la discrepanza, proprio riesce a mettere il dito nella piaga, sulla piaga. Quindi per me è questo che vuole dire quello che avevo sentito, la citazione, mentre qua si tratta di un'altra cosa, qua si tratta della cosa di nascondersi, neanche nascondersi, lui non si nasconde mai, lui è se stesso. È semplicemente che gli altri non vedono, gli altri vedono un'altra cosa, perché è proprio razionalmente impossibile presumere che sia proprio lui, e di conseguenza, siccome loro vedono altro, chiudono gli occhi e vanno avanti nella convinzione che loro stanno facendo un bel deal per un comico di grande successo. Mi fa venire in mente qualcosa che è successo oggi. Di cui vorrei mettervi a parte. Oggi c'è stato un bello sciopero pesante. E i taxi? Direi selvaggio. E all'inizio ho avvertito la violenza di questo sciopero, nel senso che da un lato mi ha fatto riflettere, cioè la democrazia prevederebbe che ci possano essere delle forme di protesta per far sentire la propria voce. Però queste forme di protesta, nel momento in cui attaccano o incrinano o limitano, come l'hanno fortemente limitato oggi i taxi, la libertà degli altri, beh, non è più ammissibile. Ci devono essere forme di protesta che rispettano comunque la libertà altrui. Come a me non è piaciuto lo sciopero dei trasporti pubblici, perché io avevo qualcuno che lavorava un amico lavorava al Ministero delle Finanze e ha detto: noi potremmo scioperare per 6 anni e la gente sarebbe solo felice, perché nessuno dovrebbe mai più pagare le tasse finché siamo in sciopero. E quindi il potere contrattuale di chi lavora al Ministero delle Finanze è zero, e di chi lavora nei trasporti pubblici è altissimo, perché se si fermano si ferma tutta la gente. Quindi credo che sia questa violenza, tra virgolette, passata, con cui i tassisti si sono ribellati, la forma che hanno usato, però mi ha lasciato perplesso, nel senso che a un certo momento ho attraversato una di queste colonne di taxi e mi sono fermato, ho chiesto: ma scusate, perché protestate? E qui è il punto interessante, perché mi hanno detto: ma protestiamo perché il ministro vuole dare via libera ai lavoratori in nero, ai tassisti in nero. E mi è venuto spontaneo immediatamente dire: beh, allora sono con voi nella lotta, nello sciopero. E questo è stato l'errore, perché se fosse veramente così, allora io sì sarei d'accordo, ma la domanda è veramente così? È veramente quello che vuole il ministro dare ai tassisti in nero libertà? O è semplicemente un'altra cosa, cioè di dare a tutti la licenza per i taxi, l'importante è avere, rispettare certi parametri, che è cosa ben diversa dai lavoratori in nero. E quindi ecco, il tranello in cui, il trick in cui sono caduto, la trappola, quella di aver creduto a una visione di qualcosa e di aver accettato questa visione come la totalità, come la visione completa, la visione olistica del concetto. Quindi mi fa molto piacere questo libro che analizza la percezione che abbiamo delle cose, che può essere completamente distorta, perché qualcun altro può leggere assolutamente l'opposto. Quindi ripeto il titolo, cioè che non ha mai detto, Lui è tornato, di Timur Vermes, che vi raccomandiamo di leggere, divertirvi e spaventarvi. Lui è tornato, di Timur Vermes. Sapremo anche l'editore? No. Non sappiamo l'editore? No. Mannaggia, vabbè, e come si scrive Timur? Timur Vermes? Timur V-E-R-M-E-S. Vermes? Alla francese, se lo pronunci alla francese. Timur Vermes. Lui è tornato. Beh, lui è tornato, noi invece. Il è revenu. Fatto saltare anche l'antenna. Beh, invece lui è tornato, invece noi ce ne dobbiamo andare. Ce ne dobbiamo andare perché ormai il tempo sgocciola, se ne sta andando. Speriamo, quindi, che non sgoccioli fuori. Siamo in Belgio, se non gocciola adesso gocciola fra un po', e quindi ne approfitto per ringraziare infinitamente Fiordaliso per questo bellissimo...